Io non li risolvo, non mi interessa, però mi incantano lo stesso. Mi incanta la concatenazione fra cose tanto eterogenee. Un re, una fattoria con due tori, un pescatore che getta la rete, una ragazza alta accanto a una tomba. E poi quelle lettere misteriose, qua e là. A, Q, M, R. Poesia, surrealismo, a volte penso che mi piacerebbe vivere dentro un rebus.